Drago, cerca di essere più infantile, cerca di essere divertente. Vabbè, aspetta, cioè, essere non è facile, aspetta. Voglio dire, aspetta. Dobbiamo far chiedo asilo. Tento, tento, tento, tento! Oh, no! Chiedo asilo. Bentornati, chiedo via, un saluto da cappa! Dai, proprio tu che dici, allora, componiti, componiti, dai, ricomponiti, un saluto da Drago a tutti i bambini all'ascolto, eccetera, oh, eccetera. Oggi parliamo di Nietzsche. Di Nietzsche? Sembra, no, scusa, nickname, ah, di nickname. Nickname. Friedrich c'entra, nickname. Ma sì, appunto, cosa c'entra? Nickname, Drago, nickname, un nickname, no? Sì. Ce l'hai un nickname? Beh, mi è già successo di dover scegliere un nickname, ho capito, sì. Ce l'hai, quindi, qual sì, è? Ce l'ho. Non so, delle volte mi capita Mdrago. Vabbè, delle volte, non so, Dragovic, perché così mi piace essere un po' serbo. Ma non è... Se, appunto. Ah, ecco, appunto. I nickname servono, servono tantissimo. Sì, ti puoi iscrivere a un forum con un nickname, mica col tuo nome, no? Anche per account di posta, no? Perché? Vabbè, se uno si chiama Mario Rossi, non è che mette Mario Rossi at libero.it, si chiama perché Mario ce ne sono Rossi. Altri 30.000. Vabbè, ma chiama... il primo Mario Rossi è primo, Mario sì, Rossi. Anche il primo Mario. Se vuoi mandare sms alle trasmissioni televisive, quelle che poi ti mettono il crawling sotto con la tua frasetta, crawling, tipo sì. Il crawling. Vabbè, sì, quelle scritte che passano sotto, sì, è bene? Passano sotto, con su scritto, non so, ti amo tanto Orsacchiotto Peloso, la tua pallina 96. Vabbè, è vero che il nickname, prima o poi ci è toccato un po' a tutti scegliercelo. Sì, però soprattutto il poker online in TV. Ma cos'è il poker online? Sì, cioè, non l'hai mai visto? No. Tipo, non so, su DJ online. TV. Nemmeno DJ le partite TV, la vere. La sera sganciano, sì. Perché insomma non c'hanno più programmi da mandare, vabbè, e si collegano con un sito, che non so se si può dire, winga.it, l'ho detto. Hai detto ormai. Semmai poi il tuono non è scoppiato. Tanto quindi. Non siamo in diretta. Va bene. Ecco. No, non dirle queste cose. Perché? Winga.it. Ecco, di notte trasmette questi giochi, questi poker, questi roulette, questi baccarat. Sì. Questi giochi tutti che... finti con gente no che... veri. Che... però ci sono quelli che i giocatori hanno tutti un nickname e per cui il conduttore non deve far altro che spiegare un po' le situazioni delle puntate Certo. Cui c'è pallina pelosa, ma come pallina pelosa? Non so, dimmi un altro nickname qualunque, segreteria so. Telefonica lupacchiotta ye ye che ha puntato 250 euro sul rosso. Ma loro sono seri mentre dicono sono serissimi perché... cercano di esserlo perché si parla di soldi comunque. Certo, cioè, si parla soldi. Di selvaggio agguerrita che ha puntato 500 euro e li ha persi perché ha puntato sul rosso e è uscito il nero, capito? Allora questa cosa mi fa pensare che per giocare al poker i nickname si scelgono, più infantili sono meglio è, perché così uno dice io non sono schiavo del gioco, stempera capito? Un po' sì, non, vuol dire non è una dipendenza questa mia di giocare di notte i soldi che non ho. Ma certo che no è una cosa normale, faccio solo pallina pelosa per divertirmi, capito? Certo, è un po' come succede nei forum del sesso, legati al sesso, lo scambio di magari però c'è duro e puro, oppure non so, 32 cm, che non vuol dire 32 anni, ma 32 cm, appunto. Quindi voglio dire, ci sono anche delle chiare allusioni poi al sesso, in quelli del sesso. Infatti io in quelli del sesso ho come soprannome... Godzilla! Sì, Godzilla... Tra l'altro anche la casa editrice Mondadori si è scelta un nickname per entrare nel business del poker online. Perché dice non è serio, capito? Allora si fa chiamare gaming. Se tu leggi gaming da qualche parte sappi che dietro c'è Mondadori e quindi Berlusconi e quindi Dellutri e quindi scusa, le aziende del premier hanno avuto sempre un sacco di nickname. Un po' una maniera. Scatole cinesi, Oliberian, nickname, Oliberian. Anche lo stesso premier è conosciuto anche come il cavaliere, il cav, papi, Berlusca, insomma dai, niente di nuovo. E ora bambini, ricreazione. Sbaglio, stavate parlando di poker online? Sì, in piccione, sì. Era perché piace anche a me il poker online. Ma smettila, ma che poker online? Sei un bambino, ma lascia stare, con i soldi degli altri. Poi tu hai internet col modem a 36k. Sì, 36k, cos'è? Non c'è 56k. In effetti no, 36, ancora prima. Già 18 non ne sopporti uno, pensa 56k. Beh, in effetti non riesco mai a vincere, perché si inchioda prima. Per forza, è lento. Comunque i giochi d'azzardo, volendo o non volendo, sono vietati ai minori, quindi... Meglio così. Meglio che si tu guardi, blocca infatti, tutto, gioca si inchioda, va bene. Vabbè, si può giocare a poker anche con le carte, eh? Ma sì, però, no, dai. Uè, guarda, me l'ha detto Gino il Bidello. Lui dice che una volta esisteva solo il poker con le carte o coi dadi, no? E che non c'era il poker online, non c'erano neanche le macchinette dei bar. E vabbè, ma allora cosa fai? Giochi con, a poker con chi? Con gli amichetti qui all'asilo? Eh beh, certo, con chi sennò? E a carte vinco sempre, eh? E beh, io baro. Ma no, vabbè, dai. No, non dico nessuno, però. Ma, cosa, ma voi giocate a soldi? Cioè, ma no, magari, no. Che soldi? Giochiamo a penitenze. Ah, vabbè. Cioè, chi vince ordina a chi perde di fare cose imbarazzanti, tipo, no? Tipo lo strip poker. No, eh? No, niente. No, penitenze, no? Sì, penitenze, tipo, vabbè, più o meno. Farsi la pipì nei pantaloni. Ma no, ma che penitenze? Girare nudo per il cortile. Sì. Fare scherzi a suor dentona. So, le penitenze, no? E meno male che tu vinci, perché chissà cosa ti farebbero fare a te. Beh, una volta per sbaglio ho perso. Cioè, pur barando hai perso. È stato un disguido. E la penitenza è stata? Ho dovuto nascondermi sotto il letto di Gino Albirello e aspettare. E aspettare cosa? Aspettando non lo so, però a un certo punto Gino è entrato in camera con una maestra d'asilo che era appena arrivata dalle Filippine, no? Vabbè, dai, cosa, basta, no, beh, cosa, fine della, no, no, fine della ricreazione. Ma insomma, dovrebbe essere un'intervista a un bambino sulle cose del mondo, ma cosa racconta? Ma comunque io non ho visto niente. Ma com'era questa Filippina? Scusa. Quando mi sono svegliato non c'era già più nessuno, era chiuso anche l'asilo. Così ho chiamato mia madre col cellulare e lei è venuta con i carabinieri e mi hanno fatto uscire. Ma no, ma... Poi sono andato a casa e mio padre mi ha preso il cinghiato. Vabbè. Però stavolta aveva ragione. Vabbè, sì. È tutto per una partita a poker, capito? Vabbè, ma il vizio del gioco è una brutta bestia. Vabbè, ma tu continui. Vabbè, per forza, baro. Cioè, vinco sempre. Basta che non incontri qualche disguido. No? Vabbè, comunque non sei tanto furbo a dirci queste cose, perché uno, noi potremmo andare a dirlo ai tuoi e sarebbero altre cinghiate. Due, potremmo andare a dirlo ai tuoi amichetti, così sarebbero pedate. Tre, potremmo andare a dirlo a Suor Dentona, così sarebbero crocifissate sulla testa di taglio. Madonna, allora mi volete morto, no? Ma guarda che il gioco d'azzardo, l'hai detto tu, è una brutta bestia. E maledetto è colui che viene contagiato dal suo morbo. E cioè? A volte la strada dell'ammalato di gioco si conclude in modo tragico e prematuro. E si conclude, inutile aggiungerlo, con la morte. Vabbè ragazzi, per oggi mi sa che può bastare. È morto. E ora bambini, e tutti a casa. Le persone Zario non ci sono più. Ma dai, capo, anche qua in mezzo allo spartitraffico. Sono tutte a casa. Poi arrivano i vigili e ci fanno la multa. Vigili vestiti di che blu. Che palle con sta multa. Beh, quel palle. Dalle multe. Ma sai che quest'anno io ho battuto tutti i record. Avrò 5 punti sulla patente rimasti. Vabbè, alla prossima. Stai tranquillo, tanto non ti tolgono i punti. Sei insieme a me, canti le persone Zario. Non ci sono più. Vabbè, allora, Margherita Hack, Ferruccio De Bortoli, Stefano Rodotà e Corrado Augias sono in assoluto per ora le persone sarie più votate dagli italiani, cioè dai nostri ascoltatori. C'è però qualcuno che ha votato Gorbaciov e anche Leo Gullotta insieme, sì. Però non vale come copia. Vabbè, io propongo la figura tragica, cioè, di Maurizio Panizza. Non si possono mettere due persone insieme come ai cavalli, capito? Ah, ecco. Devi puntare solo su uno. Su cinque. Beh, tra Gorbaciov e Leo Gullotta, insomma, punterei quasi sicuramente su sulle Gorbaciov. Persone sarie. Vabbè, io consiglio Maurizio Panizza. Non so. Voi, cioè, chi è? Come chi è? È Maurizio Panis, quel deputato o senatore del PDL che viene da Belluno, mi sembra, e ha la faccia dell'uomo lupo. Sì, ha gli occhi sì. da Aschi, sempre sì, calmo, però si vede che vorrebbe spaccare tutto sotto sotto. Lui è molto serio ed educato, sario, sì, ma è una sbavatura, perfetto. Quindi io voto Maurizio Panis, persona saria 2011. Tu invece chi raccomandi? Io raccomando Giovanni, si chiama Giovanni Estarchi. Ma tu stai veramente improvvisando. Non ne conosco io di persone sarie, perché non ci sono più, lo dice la canzone. Vabbè. Non ci sono più. Io direi che però possiamo anche salutare qui, qui sulla tangenziale. Moliamo tutto, ce ne andiamo in mezzo al traffico. E poi se ci prendono sotto, fa niente, dai. Chiedo asilo, è radio24.it 02 46 52 44 95. Scriveteci anche su Facebook.